notevolmente in ritardo, 8 e 10 e 54 secondi in questo momento. La palla 2 non c'è, ci sarà una palla 2 alternativa. Ringrazio Paolo Onofri, anche se oggi ha preso un attimo di pausa, lo troveremo già dalle prossime puntate. Mi scuso, anticipo, non sto benissimo, nulla di preoccupante, però diciamo che non sono esattamente in forma. Fortunatamente di fronte a me Pietro Rossi. Buongiorno Pietro. Buongiorno, siamo tornati. E meno male, perché abbiamo bisogno di nuove forze per quanto riguarda il Move to Groove odierno, che ci farà conoscere una particolarità da aguzzate la vista, come la settimana enigmistica, no? Nel gioco di comparazione tra due immagini simili, ma con un'attenzione al particolare specifica. Tutto nasce da una proposta di Pietro, poi da uno sviluppo molto molto approfondito. Sapete che nella conversazione poi nascono idee, questo va da sé. Iniziamo allora con il protagonista di oggi. È da tempo che vogliamo parlare di Jaylen Brown. Allora, tempo fa Lino, se non sbaglio, ci aveva chiesto un profilo riguardo Jaylen Brown. Allora, Jaylen Brown, per chi non lo sapesse, è il titolare in questo momento del titolo individuale più importante nell'NBA odierna, perché è fondamentalmente il miglior giocatore delle serie finali. Quindi no, vuol dire sei stato il miglior giocatore della miglior squadra nella miglior partita. Esatto. Diciamo che hai saputo scegliere il periodo in cui giocare bene. Jaylen Brown non è però il giocatore più forte dei Boston Celtics, è il secondo violino, se così possiamo chiamarlo, però appunto ha indovinato lui la serie finale, mentre il primo violino l'ha un po' cannata. E da un punto di vista tecnico, Jaylen Brown è un two-way player, come li chiamano loro, quindi un giocatore molto completo, che non eccelle probabilmente, o meglio, che non è uno dei primi cinque né in attacco né in difesa, ma che appunto fa entrambi molto bene. Non so se ti ricordi, ne parlammo, ne anticipammo, sì, un po' qualche tempo fa. Era un giocatore con delle pecche, secondo me, evidenti in attacco. Aveva grandissimi problemi a mettere palla per terra, andare a sinistra, o meglio, mettere palla per terra per andare a sinistra. Mano debole, particolarmente, esatto, debole. Non era il migliore a livello di decision making, soprattutto quando doveva uscire da situazioni di isolamento. Effettivamente è molto migliorato da questo punto di vista, migliorato nella misura in cui non ora è un passatore alla Magic Johnson, alla Larry Bird, o che ne so, è un penetratore come Isaiah Thomas, però ora fa meno danno, che secondo me nell'NBA odierna è già un grandissimo punto d'arrivo. Sì. È un giocatore che sa dove stare col corpo, sa dove stare nel campo nei diversi momenti della partita, soprattutto in difesa. Questo è molto pronto a livello di spacing, di spaziature, scivola molto bene difensivamente, e questo è molto bello da vedere, secondo me. Poi, se ti dovessi dire, è un giocatore che ti ruba l'occhio? No, è un ottimo atleta, corre benissimo il campo, offensivamente in isolamento si è creato negli ultimi 3 anni, ti direi, questo jumper dalla media che è efficace. Non è bellissimo esteticamente, perché non è un Jordan, non è un Bryant, che no, ti fa quelle due finte e poi tira, però appunto parliamo comunque di un giocatore che negli ultimi anni gira attorno ai 20 di media, se non di più. Sì, certo, sì, no, ha una sua efficienza. Importante. Però ecco, non. Nella tua analisi hai citato un aspetto molto particolare, dal quale vorrei poi portare approfondimento nel Move to Groove odierno, poi darne anche uno spazio filosofico nella continuità e nella quotidianità, sai, no, tra pallacanestro e nostra quotidianità, cioè aguzzate la vista, il particolare. Tu mi hai detto, lui ha una grande consapevolezza del senso di posizione in campo, questa è una specificità. Quando parliamo di caratteristiche, che è un gran tiratore, sa passare la palla, è un gran rimbalzista, ha un gran fisico, è molto veloce, ok, benissimo, ma ci sono anche tante altre piccole cose che diventano grandi. In questo caso quello che tu hai citato è molto importante, perché avere il senso della posizione e la consapevolezza in campo, molte volte grandi giocatori da playground, quando si trovano in un contesto esteso, si perdono. Certo. Ma giocatori da playground veramente molto molto forti, li ritrovi poi nel famoso 5 contro 5 e si perdono. Il campo è molto più grande. È molto più grande e la consapevolezza della posizione è qualcosa, insomma, di molto molto incisivo e importante nello sviluppo del gioco. Ecco, quindi aguzzate bene la vista per certi giocatori che magari non sembrano così così per le caratteristiche che ho elencato in precedenza, ma che hanno delle specificità, a volte anche in negativo, parleremo anche di quello, parleremo anche delle particolarità in negativo, ma per quanto riguarda l'aspetto positivo invece del gioco, ecco, la consapevolezza della posizione in campo. E guarda un po', questa piccola cosa ti può completamente cambiare il rendimento nel corso di una partita. E come le piccole cose nel lavoro, nella vita quotidiana, negli incontri, in tutto possono avere motivo di svolta. Il famoso battito d'ali in Giappone che scatena un terremoto in California, esatto. No? Ecco, questo potrebbe essere, per riassumere, quello che vogliamo comunicare in questa puntata del Mood Groove. Io non l'ho mai visto giocare questo atleta, però dalla recensione che tu ne hai fatto, insieme siamo giunti al parallelismo con Reggie Lewis, mi pare. Detto, c'è una sorta di eredità, perché la posizione è quella. Lo sfortunato. Esatto. E come Reggie Lewis, appunto, si parla di giocatori che arrivano, vabbè, in determinati momenti storici. Reggie Lewis un po' più prossimo a una grande era, che era quella dei Celtics. Sì. Jaylen Brown arriva un po' dopo rispetto ai Pierce, Garnett, che vincono il titolo, però è, diciamo, il primo grande giocatore che arriva a Boston dopo quell'era lì. E come Reggie Lewis è un giocatore che in attacco, se mi passi il termine, non è il natural, no? Non è, sì, un qualcosa di estremamente naturale, è un po' più costruito, ma attraverso, appunto, un lavoro tecnico particolare riesce a diventare un giocatore che comunque offensivamente si porta a casa i suoi 20 punti a partita. E che, beh, che non è in poco, NBA, non è poco. Non è poco. We got da una raccolta curata dal grande Jill Peterson, grande scout. Lui, per quanto riguarda i giovani talenti, potrebbe essere un ottimo scout NBA, per cui nella particolarità l'ho voluto portare all'interno della playlist. Stiamo ascoltando Flow, questo brano interpretato da Maya Azucena. Rosewood Recording, una costola appunto dedicata ai giovani di talento della Talking Loud. Gli americani hanno sempre questi modi di dire molto particolari. Ci sono due cose impossibili nella vita da poter gestire: un matrimonio e arbitrare una partita di pallacanestro. Hanno queste due. Che drammatici. Sì, molto drammatici, secondo me. E mi è venuto in mente perché, siccome oggi non abbiamo avuto la palla 2, un po' per motivi fisici, un po' perché giustamente Paolo si è preso uno stacco stagionale, ma alzare la palla 2 ti è mai capitato? Sì, difficilissimo. Difficilissimo. Meno male. Ah, ecco. Quindi... Tra l'altro, grazie. Gli ascoltatori non sanno se Willy ha il fisico del cestista. Io sono 1,75 m, 1,76 m. Una statura media. Sì. Sono che, però, io che sono deforme. Quando siamo, giusto. Quando siamo al campetto, capita che io non sia il più alto. E mi è capitato di alzare la palla 2 con due Marcantoni di 2 metri e 2 metri in una partita particolarmente competitiva di pick up, e non ti nego, l'ansia da prestazione era più lì che poi a tirare in campo e fare bene durante la partita. Alzare la palla 2 è complicato. Basta per fatto. Esatto, è complicato. Anche questo nella particolarità nella vita, non so. Oh, questo saluta sempre per primo, è sempre il primo con cordialità a porgerti la mano, è sempre quello che durante la colazione condivisa, beh, almeno il gesto lo fa. Sono tutte particolarità positive queste, che poi magari danno evidenza anche ad altri aspetti, come questo giocatore. Sì, non è esattamente quello appariscente, però ha una grande consapevolezza e senso di posizione estesa sia sua che dei compagni in campo, e improvvisamente, pur non essendo né un fondamentale e nemmeno qualcosa di evidente presenza, è qualcosa che ti può fare la differenza. E ci sono tante cose anche nella vita vissuta che non sono così evidenti, ma che possono fare la differenza. Quindi aguzzate la vista per i particolari. Allora, abbiamo parlato di Reggie Lewis, che poteva diventare, insieme a un altro sventurato fenomeno, per me lui fenomeno, Len Bias. Non ha mai giocato, pensa, una partita NBA. È stato scelto al primo giro dai Boston Celtics, dal College del Maryland, un giocatore di 2,02 m, sarebbe diventato un'ala piccola con grandi capacità di avvicinamento a canestro e una mano molto efficace, una fisicità intensa. E anche qui andiamo nella particolarità. La particolarità di Len Bias, che a me lasciava veramente così stupefatto positivamente, è la capacità di giocare a nascondersi sulla linea di fondo. Guarda che diventi immarcabile. Bello. Cioè, giochi in backdoor sempre e comunque, oppure se ti aspettano sotto canestro, hai un tiro dall'angolo abbastanza agevole. Se invece sei marcato in maniera molto appiccicosa, la capacità di giocare a nascondersi è qualcosa, oltre che di particolare, di affascinante per chi è attento al gioco offensivo, anche di molto efficace. Da difensore, per l'atleta bravo a nascondersi, sapete che il contatto è fondamentale nella pallacanestro. Ora sempre cercavi, no? I fianchi, le braccia, sentire dell'avversario, dov'è, sentire dov'è. Ecco, quello bravo a nascondersi, tu cerchi non lo senti e mai, non trovi, vero? Nessuno, hai capito? E poi te lo ritrovi sotto canestro che appoggia a un centimetro dal paniere per due punti facili. Ecco, oltre alla sua forza, alla sua capacità dello sventurato Len Bias, per un occhio attento vi posso dire la capacità di giocare, mettiamola più in maniera comprensiva, sulla linea di fondo, che è difficilissimo, sì. Come abbiamo detto più volte, no? La linea di fondo è un altro difensore, volendo, e quindi è un valore aggiunto ulteriore saper trasformare tutto ciò in un vantaggio. Sì, è vero, è un altro difensore, però c'erano dei giocatori anche a livello giovanile bravissimi a prendere il fondo. Se prendi il fondo, ok, hai il fondo, ma non hai l'aiuto. È vero. Non hai l'aiuto. Però bisogna saperlo fare. L'Embias lo sapeva fare. Silk 130 e Alison Krockett per questo New Soul a ridosso dello stacco pubblicitario delle 8:30. Il gioco in backdoor è anche molto bello da vedere, e soprattutto se hai un compagno come Dennis Johnson. Yeah. E Larry Bird ha avuto modo di portare delle conclusioni in backdoor che erano veramente qualcosa di poetico. Ricordo un episodio in cui riceve un passaggio direttamente dal tabellone, in cui Dennis Johnson batte la palla contro il tabellone. Io dentro di me per una frazione di secondo ho pensato: perché tira un giarone del genere? No, sapeva che Larry Bird aveva già fatto un tagliafuori per prendere il rimbalzo offensivo e appoggiare con un grande senso di posizione a canestro. Anche in questo caso, aguzzare la vista, stare attenti ai particolari, come per quanto riguarda un aspetto quotidiano, è molto importante. Sei un osservatore, Pietro, per quanto riguarda in generale. Ci sono veramente persone che a me stupiscono. Io non sono un grande osservatore, faccio analisi antropologica, ma non tanto in maniera critica, più in maniera curiosa, di particolarità, se vogliamo anche, non dico superficiale, però perché mi piace stare da solo e osservare l'animo umano, costruirmi storie, ma non sono l'osservatore, non potrei fare il detective, ecco, quello è... No, oddio, quello neanche io, ma perché non mi piace andare a fare... Gli affari degli altri. Esatto, il cosplayer delle guardie non mi piace molto. No. Però osservare i dettagli ti direi di sì, e ti dico anche il perché, essendo io sono un fratello di mezzo, ho avuto un fratello maggiore. Okay. No, quando hai un fratello maggiore a una distanza di età non particolarmente grande, passate molto tempo insieme in infanzia, ma c'è una gerarchia evidente rispetto a tutta una serie di tematiche, il gioco, certo, le compagnie e quant'altro, e quindi spesso fai un passo indietro, sei costretto a fare un passo indietro e impari ad osservare, impari a guardare, vedi le cose a un metro di distanza in più e ci fai l'occhio, ecco. E poi diventa anche un vantaggio, e tra poco ne parleremo al Move to Groove dopo la pubblicità. Buon ascolto, vi aspetto sui 103.1. Scusate il ritardo, ribadisco però, co-conduzione e co-comunicazione al 333-180-9494. Vi aspettiamo. Sha sha do be do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do voice is so sexy, man. She's so fine. Yo, man, calm down. You're working what? Up a sweat, man. Yeah, go ahead, man. Yo, you spending at Dodgers tomorrow or what? Yeah, yeah. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. Daily dilemmas when mad cops act like enemas, talking feces, cause they got a piece like VCs, to say the least. He's accompanied by these man-made laws that says I can't puff raw in the halls. Cool, caught in the act, no need to testify that I'm hot, but I can see it in your red eyes that you rather test the chocolate tie to say these allegations. I know I'm dealing with discrimination, but will it hold up in court when I'm the one who got caught, frustrated and hated when he stated all sorts of ill remarks? Why he stressing this when I just heard shots coming from the park? Harlem High graduate, but yet he treat me like DJ Milo. Is it worth it? Stavolta ci sono, dopo questo stacco pubblicitario. Non sono in injured list, in lista infortunati, ma ci siamo. Il Move to Groove con Pietro Rossi. Aguzzate la vista, occhio al particolare. La tematica di oggi nella critica cestistica e nell'attualità, nell'imprevedibile martedì di Radio Città Fugico. Abbiamo portato la particolarità positiva. Sì, abbiamo certo dato per una diversa normalità quello di essere dei tiratori eccezionali, dei rimbalzisti, un grande fisico, una capacità anche di avere uno sguardo nel passare bene la palla. Sono evidenti particolarità, però c'è anche una particolarità più nascosta che può essere altrettanto importante. Ne abbiamo citate due, una in riferimento all'atleta che è protagonista e filo conduttore di quest'oggi, di cui non ricordo il nome. Jaylen Brown. Jaylen Brown, lo metteremo in copertina per la puntata odierna. Ma un bel ragazzo. E dei Boston Celtics, piacente, una bella presenza. Che è quella di avere consapevolezza nel senso di posizione, e poi anche quella dello sventurato Len Bias, la capacità di giocare a nascondersi in backdoor, ma non solo, in generale sulla linea di fondo. Beh, in questi 20 minuti magari diamo accenno anche alle particolarità negative. Io direi di partire da un atleta che rispondeva a nome di Samuel Williams, in porta ai Philadelphia 76ers, preso e portato nel roster anche con presenza per dare un po' di respiro a un Julius Irving, Dr. J, in un momento di fine carriera. Beh, Sam Williams le caratteristiche le aveva, e come: atleta incredibile, velocissimo, un'ira di Dio a campo aperto, non certo un tiratore, ma per quanto riguarda l'atletismo, il gioco in transizione, l'aiuto a rimbalzo, un'elevazione stratosferica, quindi anche una spettacolarità da vedere. Beh, certo, un giocatore che quindi, essendo bello da vedere, dici wow, è un bel giocatore. Arriva a Bologna e non ha esattamente un risultato come ci si aspettava, un po' perché non ha trovato una squadra adeguata, poi magari, se abbiamo tempo, faremo approfondimento anche su questo, ma soprattutto per un aspetto che andrò a scoprire facendo conversazione con uno scout NBA, Adam Filippi, amico fraterno tra l'altro, che saluto. E parlando di Sam Williams, io con entusiasmo dico: beh, però lui gran giocatore. E lui, un po' interrogativo, mi guarda e risponde: lui non ha buone mani. Cosa si intende per non avere buone mani? Non fa canestro, non ha un bel tiro? No, è qualcosa di più. Può essere appunto non saper ricevere bene il pallone. Esatto. E quindi automaticamente avere nella statistica una quantità di palle perse non indifferente, e soprattutto non dare sicurezza al compagno di squadra che deve passarti la palla. Esatto. Facci caso, lui non ha buone mani per ricevere. Beh, è una particolarità non così evidente, però va a incidere negativamente. Ho fatto caso a questo aspetto. È vero, inaffidabile in alcuni passaggi e purtroppo con queste mani non sicure e anche un po' balbettanti non dava al compagno quella sicurezza e quella presenza e quella certezza nel possesso di palla, a dispetto di un ottimo giocatore, secondo me. Però questo è un limite, seppur di una specificità, che va ovviamente a portare un limite non indifferente. Nikolic diceva: tu sei come mucca di Bosnia che dà ottimo latte e poi dà calcio a secchio. A volte la particolarità negativa porta a tutto ciò. Sei come mucca di Bosnia, dà ottimo latte ma poi alla fine dà calcio a secchio e quindi spreca tutto per una particolarità negativa. Altro aspetto, poi sapete, la comparazione e la critica va sempre, anche per capire meglio, soprattutto per me, quello che non mi affascina assolutamente, anzi non mi trattengo nel dire mi repelle, conoscendo una certa pallacanestro e trovando quella attuale. Queste specificità così minuziose, così belle, secondo me così, mi permetto di dire affascinanti, ci sono nella pallacanestro attuale? Allora, ti direi di sì, però secondo me si evolvono in ottemperanza della pallacanestro odierna. Secondo in altri me, aspetti. Esatto, secondo me, per esempio, ci pensavo mentre preparavamo la puntata, mi sono detto qual è un intangibles, un dettaglio che secondo me è molto bello da vedere nell'NBA di oggi. Secondo me è la capacità del tiratore di spostarsi e mettersi bene in angolo sui ribaltamenti. Ah, ok. C'è il penetratore che deve cacciare questi missili in angolo il prima possibile e trovi sempre il tiratore che non è o troppo in angolo o a metà della linea da tre, cioè riesce a mettersi bene coi piedi. Secondo me è una cosa molto bella da vedere. In generale il movimento senza palla, secondo me nell'NBA odierna, è valorizzato perché appunto il campo è più grande, si tira da tre di più, hai più spazio. Ci sono delle cose che secondo me sono in allontanamento. Esatto. Riuscire a trovare in allontanamento la modalità di ricevere lo scarico più idoneo. Assolutamente. Di contro, secondo me c'è in generale un peggioramento a livello di scelte vicino al canestro. È pieno di giocatori, sì. Non ovviamente nei giocatori di alto livello, giocatori di alto livello non è da prendere come campione, ma ci sono molti giocatori di come si direbbe un tempo, media borghesia NBA, sì, che sono, ora mi si perdoni il francese, ma sono veramente frustranti da vedere, perché magari passano il layup e la sparano da 4 metri oppure la tirano in angolo per un potenziale ribaltamento che non ci sta. Quindi delle scelte, assolutamente quello che ho, esatto, trovato anch'io nei frame di gioco che sono, secondo me, che la mia pazienza mi ha consentito di vedere delle scelte di gioco. Magari torniamo al discorso che abbiamo fatto più volte, manca una scolarizzazione del gioco e quindi le scelte proprio a livello di intelligenza, di conoscenza, ti sembrano delle scelte stupide. Ed è per quello che... Ma cosa fai? Ma tutto questo nasce anche dal particolare. Sì, sì, assolutamente, certo, assolutamente. Particolarità negativa nell'extra cestistico, ad esempio frivolezza, però poi alla fine influisce. Chi mangia i tortellini in brodo e con il cucchiaio fa questo rumore, io non lo sopporto, io quello veramente mi dà un fastidio. Beh, sarò dicelo, un po', questo è un particolare molto molto frivolo, mi rendo conto, anzi mi scuso con chi ha questa abitudine, però insomma è un'abitudine non esattamente così attraente, ecco, almeno per quanto riguarda il convivio che viviamo costantemente nella realtà, anche se tutto il rispetto per i tortellini in brodo, e mangiateli come più vi aggrada, per carità, mi raccomando che siano in brodo. particolarità negativa, ad esempio fisica in questo caso. Beh, per quanto riguarda, restiamo in ambito di mani, per Sam Williams un aspetto di sensibilità tecnica, per il grandissimo Moses Malone una questione unicamente fisica, le mani piccole, le manine le manine non sono neanche bellissime esteticamente. No, poi su un uomo di due di, cos'era? 2,10 e 130 kg ancora, secondo me stonavano ancora di più le manine. Oh, il più grande ribassista di tutti, beh, i tempi, fa. Però, quindi diciamo che sopperiva bene a questa... Avercene di manine. Averne. Sì, ha portato questa caratteristica, per quanto mi riguarda la vera pallacanestro che porto di solito in frequenza, ma con l'aiuto di Pietro poi stiamo conoscendo a livello esteso in tutti i tempi la realtà agonistica e cestistica. Tornando a Moses Malone, ecco, questo era un limite che, per quanto riguarda il mio gusto estetico, diciamo che lo limitava molto. Spesso do attenzione a quelli che sono i difetti, che come vengo a portare definizione sono quegli aspetti che portano all'innamoramento, ti innamori per i difetti di una persona, no? Ecco, in certi casi le particolarità negative non sono così innamoranti, ecco. No. In conclusione, uno sguardo al contemporaneo dopo aver aguzzato per bene la vista sulle particolarità in questa puntata del Mood Groove. Allora, Draft 2024, mi puoi dire qualcosa a tale proposito? Allora, Draft 2024 non è, come dire, non è la classe migliore dell'ultimo periodo, okay. Anzi, sembra una classe dove il livello è relativamente basso. Ci sono, come dire, la truppa francese dopo l'anno scorso continua con due giocatori nelle prime quattro scelte, mi sembra, o tre scelte, quindi una volta c'è la Rigaudot e basta, esatto. Ben per i cugini d'Oltralpe, cos'è che ha tenuto banco è la scelta del figlio di LeBron, il figlio di LeBron James, che è buono, no, è una sega assoluta. Mi okay, si perdoni, sei stato molto esplicito, mi si perdoni, certo, però chiaro, però questo è, e poi anche lì è stato scelto con quale scelta? La numero 3, la numero 4? No, assoluta. È stato scelto con la numero 56 o 55 assoluta. Quindi già al secondo giro. Sì, cioè, come dire, se non fosse il figlio di LeBron James, nessuno avrebbe posto chissà quale attenzione. Sta giocando ora in Summer League e sta andando male. E, come dire, se già in regular season NBA negli ultimi anni il livello è basso, possiamo immaginare quanto sia basso in Summer League, ossia in estate, quando non vuole giocare nessuno, certo. Ci sono solo, come dire, i dodicesimi e in poi. E LeBron James, perché si chiama LeBron James Junior, sì? E viene chiamato Bronny. Ah, ok. Bronny, amichevolmente. Esatto, Bronny è diminutivo. Sì, ed è scarso, ahimè è scarso. In attacco è, come dire, è nullo, perché non mette palla per terra, non è un buon tiratore, non è un buon passatore, non ne fa, a livello di dettaglio appunto, non ne fa mezza giusta. Ho capito. Difensivamente sì, è un giocatore che si impegna molto, è molto operaio in questo senso, però poverino non è aiutato dal corpo, perché se il padre è questo atleta sovraumano, Bronny James è 1,86 m, 1,87 m, no. Sì, è piccoletto, 86-87, non particolarmente piazzato, non particolarmente veloce. E infatti lo stesso Jaylen Brown, pensa te, lo leggevo stamattina mentre preparavo le ultime cose per la puntata, Jaylen Brown stanotte era a bordo campo nella partita di Summer League tra Bronny James, ossia i Lakers, e i Celtics, che invece è la squadra no di Jaylen Brown. E Jaylen Brown è stato inquadrato a bordo campo mentre diceva a un collega, sempre dei Celtics, durante la partita: secondo me Bronny James non è proprio pronto per l'NBA. E effettivamente non sembra aver torto, ecco. Già LeBron James non è il massimo della simpatia, poveretto, quindi per il figlio non oso immaginare le prese in giro. Allora, guarda, ti dico, se il discorso viene mortificato a un vabbè, ma se tu fossi LeBron James e ti dicessero puoi far giocare tuo figlio in NBA, da quel punto di vista ti direi vabbè, sì, poi nella stessa squadra, no? Sì. Cioè, che figata. Se vai un attimo più appunto nel dettaglio, cioè questo ragazzo, anche perché ha 19 anni, ma dai, rischia di spaccargli veramente la schiena a livello fisico ed emotivo. Ed emotivo, sì. Beh, io consiglio sempre, poi consiglio per il tempo che trovo, per quanto riguarda queste situazioni, di fare qualcos'altro. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, perché figlio di John Coltrane non è un grande saxofonista, per dirti. Ma i figli di Jordan, te lo ricordi Marcus Jordan? Sì. Cioè, sì. No? Tra l'altro, vuoi sapere, è un gossip becerissimo. Marcus Jordan, uno dei figli appunto di MJ, ora sta con Larsa Pippen, ossia la moglie di Scottie Pippen ai tempi di quando giocavano insieme, e questo ha provocato un'ulteriore rottura fra Scottie e Michael Jordan. Ne avremo per la prossima puntata del Mood Groove, tra gossip e figli d'arte o meno. Alle 8:55 minuti è il momento di salutare, dare appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina. Grazie Pietro di tutto, e grazie per queste anticipazioni per figli la prossima puntata. Ci sei, mi raccomando, martedì prossimo al Mood Groove. A voi per l'attenzione, domani alle 7 mattiniere e mattinieri vi aspetto con il Breakfast Club di Radio Città Fujiko. A breve pubblicità, seguire Liberi Dentro e poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. A tutte e a tutti un buon ascolto e un buon martedì. Ciao Pietro! Ciao! Ciao.